Riprendo anche il monologo che ho scritto io sulla vita di Dino Campana, credo ad aprile però 2013, e c'è un documentario a cui tengo molto che si chiama Un consiglio a Dio, che verrà presentato al Festival Internazionale di Pesaro il 29 di giugno e poi verrà proiettato a Roma, a Piazza Vittorio, l'8 luglio. È un'operazione molto interessante, molto piccola, molto difficile, molto di nicchia, però in cui faccio un trovacadaveri della camorra che si esprime in dialetto casertano bruttissimo, un personaggio di orrendo, insomma, che però è molto importante perché è inserito in un documentario sull'integrazione e fa vedere le due facce della medaglia, insomma, tra questi poveri disperati che arrivano da noi e un altro povero disperato che interpreto io che fa questo mestiere per 15 euro ogni cadavere che trova e che... Insomma, è un'operazione molto particolare a cui tengo molto. E poi adesso inizio le riprese, il 2 di luglio inizio le riprese del nuovo film di Marco Ponti e speriamo bene, insomma. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Parliamo ancora del Taormina Film Fest. Pala Congressi, Taormina. Un film francese da regista, uno da attore in Italia. Un progetto con Valerio Binasco. Dopo l'incontro con gli studenti, Michele Placido. Noi non abbiamo avuto, almeno la mia generazione, non mi ricordo, di incontri particolarmente, come dire, facili o non se ne effettuavano a quell'epoca. Adesso c'è questo modus di, soprattutto attraverso i festival. Io trovo che sia un'iniziativa molto molto buona. Chiaramente noi diamo quello che possiamo, raccontiamo quello che siamo, non è che vogliamo insegnare, almeno io non voglio insegnare nulla. Dico quello che ho fatto, poi tra l'altro essendo noi dei privilegiati e dei fortunati, perché possiamo raccontare una bella carriera, bisogna capire i ragazzi poi cosa recepiscono. Sarebbe interessante capire cosa pensano i ragazzi, perché noi che possiamo dire? Siamo felici di farlo, speriamo di fare una cosa buona, però quello che ricevono i ragazzi, bisogna dire loro cosa pensano di noi, sarebbe più interessante. E i suoi di maestri? No, mi viene un po' da riflettere perché in genere non ho proprio grandi maestri, questo soprattutto perché forse venendo dal teatro la mia fonte di ispirazione è più il teatro, sono più i testi teatrali. L'unico vero regista che mi ha sempre dato grandi emozioni è stato De Sica, però la base di De Sica, l'ispirazione di De Sica è Zavattini, per cui Ladri di biciclette, Ciuscià, i grandi film insomma di De Sica che hanno a che fare con il dopoguerra, quelli sono dei grandi insegnamenti. Poi ci sono dei maestri del cinema che in qualche modo ritornano in mente, Coppola, in qualche modo Sergio Leone, soprattutto gli ultimi film. Il cinema contemporaneo, lavoro il percorso che ha fatto Garrone, che sta facendo Garrone, è molto interessante. E anche Sorrentino, questi due registi italiani giovani che mi danno delle forti emozioni. Dov'è? Chi? Dai, non fare lo scemo, la Vincenzina, tirala fuori. Qui non ci sta nessuna Vincenzina. Ah, siamo arrivati a sequestro di persona. Guarda che io ti sparo, sai, guarda che io ti sparo. T'ho detto che qui non ci sta nessuno. E se cerchi conflitto a fuoco, sappi che qui c'è una calibro 9. E io ti do 9 pedate del culo e poi dopo ti sparo a te e a quella là. Dei discorsi con una persona seria e moderna degli anni 1970. È quelle che facevo una volta. Il livello umano. Non siamo sottosviluppati nel terzo mondo. E se una donna più giovane di te non ti ama più e ama un altro, bisogna avere magnanimità, bisogna comprendere. Ma io li conosco, quelle della tua generazione egoista. Perdonano e perdonano, però fin quando non tocca a loro. Te lo faccio vedere io il perdono, con 4 cartucce. Ma che ti pensi di fare con quella scopetta, eh? Mi fai pena. Quando uno fa appello alla magnanimità, non si va a ciulare gratis la moglie dell'amico, capito? Perché l'uomo la Vincenzina ce l'aveva e quell'uomo ero io. Guarda che il suo uomo sono io! Hai cacciato la moglie di casa per una lettera anonima! Le lettere anonime sono casi miei, capito? Come fai a sapere della lettera anonima? Adesso lei ha due grossi progetti. Via l'Italia è una commedia di Massimiliano Bruno. Io faccio un politico che sbrocca e vomita volgarità dall'inizio alla fine. È un film sulla politica dell'Italia di oggi, è la storia di un politico con una famiglia figli, Raul Bova, Alessandro Gassman, Ambra Angiolini, Rocco Papaleo, che non è figlio ma fa un ruolo molto molto importante, Edoardo Leo, e è un politico che sbrocca, comincia a vomitare volgarità, oscenità, e perché gli accade qualcosa da vedere nel film, naturalmente, non lo diciamo come e perché. E in questo percorso vedremo un po' l'Italia degli ultimi anni, sentiremo delle cose molto forti, molto belle, molto curiose, in cui penso che il pubblico riderà, ma riderà dicendo amaramente, riflettendo amaramente quella che è stata la politica di questi anni. E soprattutto poi ci sono i personaggi dei figli che in qualche modo soffriranno questo comportamento del padre, ma c'è un riscatto finale che adesso non dico, che sarà un colpo di scena in cui la dignità del padre riesce a recuperare qualcosa di importante, soprattutto per i figli. Di più non posso dire perché ci sono delle sorprese nel film. Faccio un ruolo divertente. Porcellini alla pugliese, che può sarebbe porcellos? Un chilo di farina, oh oh, oh, a farina. A seguire un litro di vino bianco. Iiii, tante di vino. Lievito. Di birra. E a birra. Ah, Popè, all'opera. Quando io dico voglio portare Valerio Binasco, fa il regista, tutti mi dicono chi è. E vabbè, io non lo conosco, va bene, ci può stare pure. Però se te lo porto io a dire guarda, voglio fare, come dire, da agente, da direttore artistico di questo bravo regista, ponendo sul piatto un dramma sull'Italia di oggi, come vedi le difficoltà ci sono anche per me. In questo momento, mentre noi stiamo parlando, in Italia stanno girando 4 film, in Francia 70. Allora vedi, due paesi, là c'è la grandeur, ma vera. Purtroppo noi nel nostro provincialismo non ci accorgiamo, siamo ridotti ormai. La Romania produce più film che l'Italia, lo sapete? La Romania va e vince 4 premi al Festival di Cannes. Con un paese che naturalmente noi non amiamo, che è Zingara, per carità, cose, cioè, però c'è più cultura che nel nostro paese. Ci sono i giovani che hanno più rabbia e che riescono a fare una qualità migliore della nostra. Ma i nostri giovani, ripeto, non sono stimolati da nessuno. I padri dove sono? Palacongressi Taormina. Una prima donna dello spettacolo si mette ancora in gioco con Baci Salati, Sandra Milo, e il suo sguardo sempre sorpreso sul mondo. Beh, una crisi spaventosa come tutto, forse lo spettacolo ancora di più perché non è considerato un genere indispensabile, non so, come gli alimentari. Peccato. I film si fanno, io adesso ho finito a Cinecittà, un film con Claudio Insegno, molto carino, un film che attraversa 4 epoche, dall'epoca romana, il medioevo, il moderno e il futuro. È fatto in un mese, lavorando, capito, disperatamente. Cioè, far bene le cose in così poco tempo e così pochi mezzi non è facile, perché quando il cinema italiano era il più bello del mondo, c'erano i Fellini, i Rossellini, De Sica, gli Antonioni, i Visconti, insomma, però aveva i mezzi anche, perché anche un vestito, sì, si può farlo carino, però se ci sei un tessuto è poco buono, è fatto di fretta, certo. Può anche venire un bel vestito, però ce ne vuole, no? E invece quando ci sono i mezzi e tutto, anche l'arte ovviamente, insomma, c'ha bisogno. Però al momento adesso il paese è così. Speriamo che poi si accorgano di questo. Lei è un'attrice giovane, cosa direbbe adesso? Gli direi, guarda, devi avere molto coraggio, molta pazienza, molta costanza. Però, come sempre nella vita, quando uno vuole veramente qualcosa, ma veramente, alla fine lo ottiene. Quindi, se lo vuole veramente, vada avanti, che poi ce la fa. Ho imparato tante cose dalle persone grandi con le quali ho lavorato, con quelli che ho fatto dei film importanti, importanti nel senso nel mio ruolo grande, anche però con quelli che ho fatto piccoli ruoli, perché da tutti ho imparato qualcosa. La professionalità, la puntualità, lo spirito di corpo, no? Perché tutti facciamo un film, tutti quanti, no? dal più piccolo macchinista, e quindi ci deve essere una grande intesa, una grande collaborazione, rispetto, amore reciproco. E poi appunto la passione per questo lavoro, ma anche per il pubblico, perché non lo facciamo per noi stessi, lo facciamo sempre per gli altri, no? Quindi sai, devi avere rispetto, pensare che ti rivolgi, cercare di fare sempre al meglio delle tue possibilità. Oddio. Però se uno già ci mette tutto l'impegno, è già una bella cosa, ecco, ha dato. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.